parlerà il professore Moreschini, struttura e funzione delle omelie. Lui ha molta pratica delle omelie, lo so anch'io per esperienza, perché ha tradotto molto per noi, per la collana dei testi patristici. È un amico dei cappadoci, in particolare anche di Gregorio Nazianzeno, e allora lo ascolteremo con piacere. Mi pare che la discussione sarà dopo, e allora poi interveniamo come si potrà. Grazie. Non c'è bisogno di presentarlo, è lui che presenta noi, lui è il padrone qui in casa. Se esaminiamo in una visione d'insieme l'attività oratoria dei tre cappadoci, la loro predicazione, come si intitola un ultimo studio apparso più di 20 anni fa, appare insolito, io credo, che mentre di Basilio ci sono pervenuti discorsi di contenuto morale ed esegetico, del Nisseno i discorsi che costituiscono peraltro un aspetto secondario della sua produzione, sono parimenti ben precisati nei loro contenuti e nel loro genere letterario, panegirici ed epitaffi per la massima parte, la fama di Gregorio Nazianzeno si basa su di un corpus di 45 discorsi, dei quali uno solo, come sanno gli studiosi, è espressamente di contenuto esegetico e assai pochi di contenuto morale in senso stretto, cioè di edificazione e di parenesi. Non so se sia dovuto proprio al fatto che si rendeva conto di questa peculiarità, che il Bernardi, l'autore appunto di quel volume sulla predicazione di cui ho parlato poco fa, ha sollevato il problema della predicazione di Gregorio non pervenutaci per iscritto. Secondo lo studioso, infatti, almeno per quanto riguarda il Nazianzeno, noi ci troviamo di fronte ad una scelta tra vari numerosi discorsi, una scelta eseguita dall'autore medesimo, che volle far conoscere un aspetto invece che un altro della sua predicazione. Egli avrebbe pertanto messo da parte quelle predicazioni di carattere esegetico per le quali pure andava famoso ai suoi tempi, come ci attesta il caldo elogio di Gerolamo, che lo chiama Preceptor Meus. Lo scrittore sarebbe stato guidato dal criterio di scegliere quei discorsi che potevano servire a tratteggiare il vescovo perfetto, tanto è vero che quelli che ci sono pervenuti sono diretti su di un piano ideale e non concreto più all'episcopato che al grosso dei fedeli. Così il Bernardi. Non intendo contraddire in toto questa interpretazione, ma mi pare che essa non tenga conto adeguato di una serie di orazioni, di omelie, che sono invece tra le più significative e originali del Nazianzeno e nelle quali l'intento di creare, di disegnare un vescovo ideale non è affatto presente. Per tornare al problema che mi sono posto, ripeto che la maggior parte dei discorsi del Nazianzeno non presenta i contenuti che caratterizzano il suo grande amico e maestro Basilio e nemmeno sono affini a quelli che terrà pochi anni dopo di lui il Nisseno, il quale, pur parlando spesso nello stesso ambiente di Costantinopoli, non segue mai, si può dire, la predicazione dell'altro Gregorio. Eppure le circostanze esterne furono più o meno le stesse per i tre oratori. Il loro ruolo e il loro compito imponevano una predicazione che avesse una certa ufficialità, sì che tutti e tre dovevano tenere conto delle circostanze e del pubblico davanti al quale si trovavano a predicare, a Cesarea o a Costantinopoli. Prima di rilevare la peculiarità della predicazione del Nazianzeno, forse può essere utile, anzi è utile, vederne le caratteristiche che lo accomunano agli altri cappadoci, caratteristiche esterne. La composizione di epitaffi per il fratello Cesario, per la sorella Gorgonia e per il padre. Ha il titolo di epitaffio anche quello per Basilio, che tuttavia appare alquanto differente dagli altri, perché l'epitaffio era di solito pronunciato presente cadavere, conteneva parole di consolazioni per i familiari. Tutto questo manca nell'epitaffio per Basilio, che è pronunciato circa 3 anni dopo la morte del vescovo di Cesarea e alla presenza dei fedeli tutti, più che dei familiari. Esso ha l'aspetto di un encomio, più che di un epitaffio. E d'altra parte non mancano, nella produzione pagana contemporanea, epitaffi pronunciati più tardi rispetto alla morte della persona che si vuole compiangere. Mi riferisco appunto all'epitaffio per Giuliano Imperatore, scritto da Libanio. Nell'epitaffio per Cesario il Nazianzeno parla, tra l'altro, esplicitamente di encomio, Con questa attività Ignazio Anzeno non si differenzia dai compiti che aveva assunto per sé Gregorio di Nissa, del quale ci sono conservati appunto alcuni epitafi. Sempre a Gregorio di Nissa e alla composizione dei discorsi per le feste dei martiri si rinviano le orazioni in onore di Cipriano e dei Maccabei, anche se quest'ultima appare sempre più come un'esercitazione retorica e non come un discorso effettivamente pronunciato. La festa in onore di un santo sconosciuto costituisce lo spunto per l'orazione 32, la quale però è tutto tranne che un discorso in onore di un santo, ma è un'omelia di puro contenuto morale. Un encomio famoso per un grande personaggio del passato è quello per Atanasio. Anche il Nisseno scrisse encomi, quello per Gregorio il Taumaturgo e quello per Basilio parimenti. Scrisse anche omelie per feste di martiri, come quella di Santo Stefano. E poi omelie di puro contenuto morale, anche se non sempre, secondo alcuni, furono effettivamente pronunciate, possono essere considerati i tre discorsi del Nazianzeno sulla pace, e pure quella intitolata sull'amore per i poveri, De Pauperibus Amandis. Poi vengono le altre orazioni famose, quelle per la celebrazione di feste importanti, le orazioni liturgiche, quella ben nota per il Natale, per il Sancta Lumina, per la Pasqua, la Nova Domenica, e alla orazione per il Sancta Lumina, cioè quella del 6 di gennaio, si può ricollegare senza dubbio l'orazione successiva, la numero 40, che è un'esortazione al battesimo. Essa prende le mosse, dicevo, dalla celebrazione della festa dell'Epifania, ma prosegue poi senza più tener conto dell'occasione liturgica che l'aveva suggerita. Può pertanto essere considerata, non senza motivo, io credo, un'omelia di contenuto e di carattere morale, analoga in questa a quella di Gregorio Nisseno, destinata a coloro che ritardano il battesimo. Con questi discorsi che ho cercato di citare sommariamente, abbiamo raggiunto il numero di 18 in tutto, se non sbaglio, su un complesso di 45, o meglio di 44, dato che molto probabilmente una orazione del corpus che ci è giunta è spuria. Con queste 18 orazioni si esaurisce la trama dei legami e delle somiglianze che ricollegano il Nazianzeno alla omiletica degli altri cappadoci. Non è poco, certamente. I discorsi che ho elencato, che ho citato, sono tra i suoi più belli, ma è necessario procedere più oltre. A questo punto, dopo aver notato le somiglianze, i collegamenti, vediamo allora di vedere la peculiarità dell'omiletica del Nazianzeno. Innanzitutto il Logos, questo termine, il discorso, l'omiletica, permette a Gregorio una varietà di contenuti molto maggiore che non agli altri due cappadoci. Permette, ho detto, ma è anche Gregorio sicuramente che di propria iniziativa si serve di questo strumento letterario e retorico per i propri scopi. Scopi che possono essere i più vari. In primo luogo, la reazione personale alle vicende attraverso le quali lo scrittore è venuto a passare. L'affare con Massimo difficilmente potrebbe essere considerato da parte degli amici Basilio e Gregorio di Nissa argomento adatto ad un'omelia. L'omelia 25 è indirizzata esattamente a questo filosofo. Che si tratti poi di un discorso che riguarda i rapporti tra filosofia e retorica, come è stato osservato, è secondario rispetto allo spunto che ha dato origine all'omelia. È significativo il fatto che Gregorio abbia dedicato una sua omelia direttamente a un personaggio vivente, a Erone il filosofo, dice il titolo. Orbene, queste orazioni, dedicate ad un personaggio con il quale Gregorio ha avuto a che fare, o ad una realtà, ad una situazione in cui egli è venuto a trovarsi, sono assai numerose. Dalle più oggettive, come quelle al padre Tacens in Plaga Grandinis, o a quella per l'elezione del vescovo di Doara, o a quella per Gregorio di Nissa, analoghe come caratterizzazione quelle rivolte ai cittadini di Nazianzo, o a Giuliano, non l'apostata ma l'esattore dei tributi, o a quei fedeli che avevano insistito perché tornasse dalla sua solitudine ascetica, e poi quando egli si era presentato loro in chiesa non si erano fatti vedere. Ma ben più interessanti, ecco, sono quelle che con un titolo insolito, e comunque sui titoli dovrò fare adesso un rapido chiarimento, sono rivolte a se stesso, eis e auton. Naturalmente quando faccio riferimento al titolo, non intendo che il titolo Sic et Simpliciter sia derivato proprio dallo stilo di, del Nazianzeno. Non è detto che fosse quella la, fosse quello il titolo dell'omelia vera e propria. Molti di questi titoli sono stati poi rielaborati dalla, dalla tradizione grammaticale successiva, come si può vedere. Però il titolo in ogni caso caratterizza o definisce una determinata situazione dell'omelia stessa. Quindi molti di questi titoli, per quello che possono valere, hanno questa precisazione di eis heauton, a se stesso. Spesso, in effetti, titolo o no, Gregorio parla rivolgendosi a se stesso. Una prima volta per far sapere, in modo traverso, appunto per mezzo di questa meditazione tra di sé, quanto lo abbiano offeso i suoi familiari e i suoi amici, Basilio in primo luogo, e i suoi concittadini, ad esigere da lui la consacrazione a vescovo. È l'eterna polemica, la ininterrotta querimonia della violenza che aveva dovuto subire da parte delle persone che dal padre, da Basilio, e alle quali proprio per questo motivo, egli osserva compiacendosi di questa contraddittorietà degli affetti, egli non poteva rifiutare il suo assenso. E poi, appunto, l'orazione 26, rivolta a se stesso dopo la sciagurata conclusione della fiducia inopportunamente affidata al filosofo Massimo, che aveva tradito, appunto, la sua fiducia. L'aspetto autobiografico e personale è evidente da una parte della tradizione manoscritta, e appunto in questo è intervenuta la tradizione scoliastica, che suona così: a se stesso di ritorno dalla campagna, oppure invece un'altra parte della tradizione manoscritta ha completamente abbandonato l'aspetto personale e ha interpretato al popolo e ai pastori. Ma l'aspetto personale è confermato dalla traduzione di Rufino, che suona in semet ipsum ex agro reversum, a se stesso tornato dalla campagna. Rufino tradusse senza dubbio questa orazione pochi decenni dopo che Gregorio l'aveva scritta, quindi è una garanzia di una certa autenticità. La orazione di cui sto parlando non è tra le più belle di Gregorio. Essa procede molto faticosamente e sembra non trovare un tema centrale attorno al quale disporre il ragionamento. L'oratore mostra tutto il suo imbarazzo a parlare davanti ai fedeli dopo l'errore in cui era inavvertitamente caduto, ma che poteva essergli rimproverato come mancanza di prudenza. Del resto, l'accusa di incapacità e di mancanza di astuzia Gregorio la rivolge ironicamente, questa volta a se stesso, parlando davanti ai vescovi di Costantinopoli in occasione del già più volte ripetuto Supremum Vale. Ma il discorso 26, rivolto al suo popolo, al suo gregge, è interessante perché rivela una tecnica confermata anche già dal discorso 10 rivolto al padre di cui avevamo parlato prima, e verrà confermata da un altro discorso, il 33, di pochi mesi dopo. Gregorio si rivolge a se stesso, ma contemporaneamente anche ad un altro argomento. Nell'orazione 10 egli si è rivolto a se stesso e al padre e a Basilio il Grande dopo il ritorno dalla fuga. Il titolo evidentemente tradisce la rielaborazione, perché in quel momento Basilio non poteva essere detto il Grande, dato che era ancora vivo ed era lì presente. Il discorso è assai breve, ma tra i più belli del Nazianzeno. Poco fa lo abbiamo sentito illustrato anche dall'amico Criscuolo. Il concetto di eis heauton è spiegato dal fatto che l'oratore, dopo aver presentato nel primo capitolo alcune considerazioni di carattere personale, aggiunge appunto all'inizio del capitolo successivo, anche qui ben inteso la divisione dei capitoli sappiamo bene che è moderna, aggiunge questo sintagma: tautamen heos nun deti, cioè le precedenti considerazioni sul proprio desiderio di solitudine e di meditazione valevano per me, ora vediamo le considerazioni successive. E l'oratore infatti si rivolge al padre e a Basilio esordendo: l'amicizia mi ha circondato e la vecchiaia del padre mi ha soggiogato. Analogamente, l'orazione 26, quella appunto per l'affare di Massimo, è composta da due parti. La prima propone ai fedeli le considerazioni che erano sorte nell'animo del vescovo durante il suo ritiro nella solitudine. La seconda è dedicata invece a presentare le considerazioni che non si attagliano tanto all'uomo Gregorio, ma a tutti i cristiani. Ma dopo che mi fu introdotto in queste considerazioni, io mi rivolsi anche ad un'altra immagine, a un altro tipo di ragionamenti, un tipo che assai ben si confà con la situazione attuale. Quindi un primo tipo personale e poi un altro che è dedicato a tutti. La prima parte strettamente personale, la seconda agli ascoltatori. È lo stesso criterio che sopra si è visto. In un primo momento Gregorio presenta le proprie meditazioni, poi si rivolge ai presenti, abbiamo visto nell'orazione 10, Basilio e il padre in primo luogo. Ed ecco il discorso 33, analogo nella struttura, solo che le due parti sono invertite. E del resto il titolo è Agli Ariani e a se stesso. Questo discorso non è molto famoso, ma è tra i più interessanti di Gregorio e tra i più significativi della sua arte oratoria. La prima parte è costruita antiteticamente, opponendo se stesso e i fedeli ortodossi agli ariani. I primi cinque capitoli rinfacciano agli ariani le loro violenze e i loro soprusi, attribuendo, per mezzo di un fortissimo sarcasmo, quelle stesse violenze e gli stessi soprusi a se stesso e ai fedeli ortodossi. Poiché tali sono le tue azioni e così si presentano, osserva l'oratore all'inizio del capitolo 6, adesso tocca a te esporre le mie ingiustizie, affinché io smetta di essere malvagio o almeno me ne vergogni. Anche qui continua l'antitesi, perché naturalmente Gregorio non espone proprie ingiustizie. Le ingiustizie di Gregorio e dei suoi fedeli consistono nell'essere poveri, umili, deboli, mentre gli altri sono splendidi e potenti. Gregorio ricorre a questo proposito anche al mezzo retorico dell'Eironeia con la descrizione della propria figura. Certamente tu accuserai anche la trasandatezza della mia veste e la posizione del mio volto, che certo non è di nobile aspetto. E non ti occuperai della mia testa e non mi muoverai gli insulti che mossero ad Eliseo quei ragazzi? Non voglio parlare di quello che venne dopo, la posiopesis, naturalmente anche questo di tipo retorico. E non accuserai la mia mancanza di cultura e il fatto che il mio parlare ti sembra aspro e contadinesco con riferimento alle proprie origini della Cappadocia, dato che stava parlando a un pubblico di Costantinopoli. E dove metti il fatto che non sono cerliero, che non sono un buffone, che non piaccio ai presenti, che non passo la maggior parte del mio tempo in piazza, che non chiacchiero, che non vado in giro a ciarlare con chi capita e su quello che capita si da rendere odiose anche le parole. E il fatto che non frequento la Nuova Gerusalemme, lo Zeusippo, i monumenti, i luoghi di ritrovo più famosi di Costantinopoli, e non vado da una casa all'altra facendo l'adulatore, il ghiottone, ma me ne sto per lo più a casa mia, silenzioso e accigliato, e quietamente mi intrattengo con me stesso, giudice schietto di quello che faccio, e forse merito di essere incatenato, di essere incarcerato, perché proprio non si sa cosa fare di me, sono una persona inutile. Perché ci assolvi di tutto questo e non ci rimproveri? Sei veramente caro e amabile, detto con sarcasmo all'avversario ariano. L'introdurre la propria figura fisica giustifica appunto il titolo di Eis Euton, a se stesso. E dopo la propria figura fisica, Gregorio presenta anche quella morale. Tutto viene fuori da questa discussione. L'umiltà dell'origine, che è un altro topos di Eironeia, perché in realtà Gregorio proveniva da una famiglia agiata di nobili natali, ma qui egli contrappone appunto se stesso, il provinciale, al superbo abitante della capitale. La sua condizione di straniero, il suo desiderio di solitudine, addirittura l'atto di tirannide che dovette subire ad opera di Basilio e del padre. Ma è importante anche il fatto che Gregorio, per la prima volta da quando fu creato vescovo, assume veramente in pieno tutta la responsabilità della carica che gli è stata conferita. Non parla con insofferenza e non chiede commiserazione, ma parla per la prima volta da quando ha cominciato a tenere discorsi del suo piccolo gregge, della stalla stretta, della sua funzione di pastore. Egli conosce le sue pecore ad una. Così dunque Gregorio parla eis euton a se stesso. Di non minore significato è un'altra. Il titolo di essa, l'orazione numero 36, è più lungo, e anche questo non so se deriva dalla mano, tutto dalla mano di Gregorio. A se stesso e contro coloro che dicevano che egli avesse aspirato al seggio di Costantinopoli. Un argomento quindi particolarmente bruciante per Gregorio stesso, accusato di ambizione sostanzialmente. Anche qui, come indica la struttura del titolo, la parte rivolta effettivamente a se stesso è la prima. L'oratore prende lo spunto dal fatto che la cerimonia di intronizzazione sul seggio di Costantinopoli, pur raccomandata caldamente dall'imperatore Teodosio, era stata la conseguenza di un impulso irresistibile del popolo. Ma Gregorio fa derivare questo impulso, che si è propagato dall'uno all'altro dei fedeli come l'effetto magnetico di una calamita da un ferro all'altro, fa derivare, e questo è interessante, tale impulso dalla efficacia dei suoi logoi, dall'efficacia dei suoi discorsi. Questa interpretazione dei fatti è apparentemente strana, ma a mio parere significativa. Essa rivela l'importanza che Gregorio annetteva alla sua oratoria, e su di essa, anche su questa sezione del discorso, tornerò tra poco, proprio esaminando quello che Gregorio pensava della sua arte dei logoi. I logoi, e non altro, ripete il Nazianzeno, hanno prodotto quell'entusiasmo, non certo le qualità esteriori della persona, che in lui non esistono, ed egli ripete con pari ironia le considerazioni negative relative al proprio aspetto, le considerazioni che abbiamo visto nell'altra orazione, la 33. In ogni caso, i logoi hanno mosso contro di lui l'invidia, e l'oratore si abbandona con arte consumata ad una ekphrasis, a una descrizione, a una ekphrasis sull'invidia, nella quale inserisce esempi della storia Israele e anche episodi significativi della storia più recente. Questi ultimi sono mascherati, secondo la tecnica retorica di non fare mai il nome esplicito della persona o della cosa o dell'avvenimento, sono mascherati sotto nomi di personaggi antichi e sono citati per via di allusioni. Ed è interessante anche il fatto che tra gli invidiosi è collocato, senza dubbio, senza giustificazione storica alcuna, ma solamente perché costui era per Gregorio una specie di pensiero assillante, è collocato anche l'imperatore Giuliano l'Apostata, che certo non può essere accusato di invidia in nessun genere. Terminata l'ekphrasis sull'invidia, con il capitolo 6, sempre dell'orazione 36, Gregorio passa al secondo argomento del suo discorso, quello del non avere mai aspirato alla cattedra di Costantinopoli. Il passaggio veramente non è molto lineare. Siccome vedo che alcuni si indignano per le offese che riceviamo e considerano come se fosse una loro disgrazia la nostra infamia, ebbene, ragioniamo brevemente su questo. Un po' un argomento tirato con i capelli, come si usa dire. Se infatti io sono stato guidato da pensieri umani e meschini per impadronirmi del seggio episcopale, quando all'inizio mi sono messo a guidarvi con questi capelli bianchi, le mie membra rugose per la malattia e per l'età, e ora sopporto queste offese, ebbene, allora io sia pur condannato. Il problema è posto sul piano del rapporto personale tra il Vescovo e i suoi fedeli e introduce ad un vasto dialogo tra Gregorio e i suoi critici, nel quale lo scrittore ha modo di difendersi e di parlare di sé e dei suoi intenti. Ciò giustifica la seconda parte del titolo del... Adesso mi sembra che si possa accettare che la categoria dell'eis auton, la categoria retorica, intendo dire, dell'eis auton a se stesso, costituisca uno degli aspetti precipui e più significativi dell'oratoria di Gregorio, nel senso che, a differenza degli altri cappadoci, egli manifesta all'ascoltatore e, in un secondo momento, al lettore, tutta la problematica del proprio io, tutte le incertezze e la sensibilità della propria personalità. Tale atteggiamento è presente anche in un altro aspetto delle sue orazioni, un aspetto ben definito, e sono quelle dedicate alla propria autodifesa. Ce ne sono più di una. La più famosa è la seconda, che si intitola proprio Apologeticus, e questo è il titolo di Rufino, che è appunto il più vicino all'epoca in cui Gregorio scrisse. E anche qui, naturalmente, la tradizione manoscritta varia, perché il titolo di Apologeticus è conservato in una parte, altri manoscritti invece dicono semplicemente Peri Hierosynes, quindi un titolo, cioè sul sacerdozio, un titolo completamente diverso. Gregorio, dunque, deve giustificare l'abbandono delle sue funzioni di sacerdote a Nazianzo, poste in secondo piano dietro al desiderio di ascesi attuata con la fuga nel Ponto. Il discorso, come ha dimostrato il Bernardì, è probabilmente una rielaborazione successiva di Gregorio in vista della pubblicazione, e forse non è stato nemmeno pronunciato, perché sarebbe una sorta di lettera aperta sul sacerdozio e sui suoi compiti. È lunghissimo, infatti, difficilmente sarà stato pronunciato nella sua interezza davanti a un pubblico di ascoltatori. Gregorio inizia, infatti, con la tipica movenza dell'apologetica. Sono stato sconfitto e riconosco la mia sconfitta. Mi sono sottomesso al Signore e l'ho supplicato. il motivo della mia ribellione passata e della mia pusillanimità per cui prolungai la mia fuga e il mio soggiorno lontano da voi per un periodo di tempo forse non breve per coloro che sentivano la mia mancanza, o il motivo della mia condiscendenza e del mio mutamento per cui io mi sono nuovamente abbandonato a voi, ecco, ora io vengo a dirvelo. Un inizio di tipo apologetico. In ogni caso, io porrò la verità nel mezzo a tutti noi senza vergognarmi, l'apologia davanti appunto a un giudizio, e osserverò secondo giustizia entrambe le parti contrapposte, sia di quelli che ci accusano, sia di quelli che ci difendono con grande zelo, e lo farò in parte accusando me stesso, in parte difendendomi. La terminologia è evidente di tipo giuridico in forma retorica, con riferimento appunto a un apologeticos logos, a un discorso apologetico. L'apologia, questo titolo di discorso apologetico, è confermato proprio alla fine. Eccovi la giustificazione della mia fuga, una giustificazione che forse ha oltrepassato la misura, e infatti è durata per un'ottantina di capitoli, per questo si diceva che probabilmente non è stata pronunciata l'orazione. In ogni caso, anche in questa orazione, in cui entra il tema della propria autodifesa, Gregorio fa comparire i motivi più intimi della sua personalità e della sua formazione spirituale: il desiderio di anacoresi, che illustra con accenti di tipo platonico, l'amore per la filosofia e, insolita cosa direi per un discorso pubblico, anche gli affetti personali. Il mio secondo pensiero che motivò il ritorno dalla fuga, il mio compito, è rappresentato dalla canizie e dalla debolezza dei miei santi genitori, che soffrono più a causa mia che per il tempo che trascorre per loro. Parlo del patriarca Abramo, qui presente, persona per me preziosa, che annovero tra gli angeli. Parlo di Sara, di colei che anche spiritualmente ci partorisce nell'insegnamento della fede. L'importanza della madre di Gregorio, che aveva già convertito anche il padre, è qui presentata per via di allusione. Io mi ero augurato di essere bastone della loro vecchiaia e sostegno della loro debolezza, tra le prime cose, e comunque avevo attuato quanto mi ero augurato in proporzione alle mie forze, sì che ho messo in non cale la filosofia stessa, che costituisce il possesso e il nome per me di tutti più prezioso. Inutile qui dico, solo per chi non è addetto ai lavori, diciamo così, che il termine di filosofia in Gregorio Nazianzeno indica qualcosa di diverso da quello che si intende solitamente per filosofia, indica proprio la dottrina cristiana, più specificamente l'ideale monastico. Ecco. Quindi addirittura per l'amore dei genitori aveva messo in non cale il suo desiderio di anacoresi, di vita solitaria, aveva messo in non cale la propria filosofia. E tutti i dubbi, tutti gli scrupoli che il compito di sacerdote gli aveva fatto sorgere sono presentati dallo scrittore nel corso dei capitoli 77 seguenti, ma si tratta, ben inteso, di una presentazione al pubblico eseguita con immediatezza dei propri sentimenti e dei propri pensieri. Lo stesso atteggiamento si incontra in un altro apologeticos, quello rappresentato dalla orazione 9. Anche qui Gregorio deve giustificarsi per aver frapposto troppi indugi e perplessità al prendere possesso della sua sempre detestata cattedra di Sasima. Ma cosa c'è di più immediato e sincero di questa allocuzione al padre e a Basilio, sempre i due tiranni che condizionarono la sua vita? Insegnatemi quest'arte di guidare il gregge, o amici, anzi, d'ora in poi, pastori per me e compagni nell'attività pastorale. Dammi i contrassegni di quest'arte, tu che sei il nostro comune padre, padre di lui, di Gregorio e di Basilio stesso in senso spirituale, e che con la tua lunga età molti pastori hai preparato e collocato l'uno in successione all'altro. E anche tu, che metti alla prova e giudichi la mia filosofia, con lo stesso significato che dicevo prima, qui si riferisce a Basilio, tu che fosti più umano tra le pecore, se mi permetti di dirtelo, allorquando noi prendevamo parte al pascolo irrazionale, più che non tra i pastori, allorquando fummo ritenuti degni del pascolo spirituale. Cioè, cosa vuol dire? Tu, Basilio, fosti più umano con me quando non eri ancora vescovo, quando eri nella mia stessa condizione, prendevamo parte al pascolo irrazionale, quando eravamo compagni di studi, più di quanto non sia adesso umano con me, ora che sei pastore, e io sono stato ritenuto degno del pascolo spirituale, è tipico di Gregorio questo modo di esprimersi per allusioni. Tu hai quello che desideravi, la nostra sottomissione, e hai vinto chi era invincibile. L'aspetto autobiografico, per concludere, caratterizza in modo particolare i discorsi di Gregorio, conferendo loro una peculiarità che non è quella dell'omelia tradizionale. Questa è di solito didascalica, tende all'impersonale. Il logos di Gregorio spesso non ha nemmeno l'aspetto di un'omelia, perché pone l'autore in primo piano. Niente del genere, io credo, cogliamo nella struttura delle omelie degli altri cappadoci. Un altro aspetto essenziale delle omelie del Nazianzeno è costituito dal ragionamento teologico. È noto, appunto, si è detto più volte che era il teologo per eccellenza. Così dicendo, noi possiamo ricondurre le omelie del Nazianzeno al genere didascalico, e non penso però di contraddire quanto concluso un attimo fa, perché l'aspetto autobiografico di cui parlo è sì una componente essenziale, ma non esclusiva. In ogni caso, infatti, Gregorio deve istruire il popolo dei fedeli. Così facendo, il Nazianzeno non si differenzia evidentemente dagli altri cappadoci, né in generale dagli scrittori di omelie. Più propriamente, aspetti dottrinali erano stati affrontati anche da Basilio in alcune sue omelie, ad esempio in quella Quod Deus non est auctor malorum, che Dio non è autore e il responsabile dei mali. Nel complesso, però, le omelie di Basilio e del Nisseno sono assai povere, o più povere almeno, di considerazioni filosofiche e teologiche. E non senza motivo, in fondo. Sia l'uno sia l'altro, infatti, non pronunciarono solamente omelie. Anzi, si può ben dire che il meglio della loro speculazione teologica non è affidata all'omelia, ma ai trattati, che qui non è certo il caso di elencare. Gregorio, invece, non ha scritto trattati, probabilmente perché la struttura, la forma sistematica del trattato o del commento erano aliene dalla sua conformazione spirituale e letteraria, la quale era invece portata alla manifestazione orale non solo dei propri sentimenti, ma anche del proprio pensiero. Visto sotto questa angolatura, il fatto che Gregorio nelle sue omelie inserisca una gran quantità di motivi autobiografici e insieme più speculazioni dottrinali di quanto non facciano gli altri cappadoci non è contraddittorio in sé. Infatti, entrambe le manifestazioni della sua oratoria corrispondono alla medesima esigenza e alla medesima conformazione della sua spiritualità. Dottrine filosofiche e teologiche sono state già individuate dagli studiosi. Qui mi interessa esaminare, anche se rapidamente, la tecnica con cui queste dottrine sono esposte nelle omelie. Se escludiamo momentaneamente le cosiddette orazioni teologiche, vediamo comunque che Gregorio affida le sue considerazioni di carattere dottrinale a una serie di discorsi che si dispongono lungo tutto l'arco della sua attività omiletica. Ciò nonostante, anche a questo proposito si può osservare un'evoluzione, in quanto i discorsi del periodo di Costantinopoli sono più ricchi di osservazioni di carattere teologico, ed è facile comprendere il motivo. L'oratore doveva entrare spesso di buona o di cattiva voglia in contrasto con gli eretici, e non di rado gli ariani dovevano essere presenti anche alle sue omelie, come si ricava dalle frequenti allusioni ad essi. Nella sua sede di Nazianzo, invece, considerazioni di carattere teologico dovevano essere sentite come superflue o non erano sufficientemente apprezzate dall'uditorio, senza dubbio meno colto e meno preparato di quello di Costantinopoli. A Nazianzo Gregorio non ebbe mai l'occasione né sentì la necessità di scrivere un discorso de moderazione in disputando cioè sull'opportunità di conservare i limiti nelle discussioni, o la prima delle orazioni teologiche che ha il titolo che non tutti sono autorizzati a discutere di Dio o in ogni momento. Questa è una condanna delle sottigliezze del disputare e della mania per le controversie teologiche che erano tipiche dei cittadini di Costantinopoli o comunque del mondo orientale più esperto in letteratura e negli studi, più colto, insomma. Tra le orazioni del periodo di Nazianzo, che sono le prime 19, considerazioni di carattere filosofico e teologico si incontrano, si può dire, solamente nella seconda omelia, che è, non senza motivo, appunto, una lettera aperta e destinata a un pubblico ristretto di lettori. Ancora nell'epitaffio per Cesario, che fu pronunciato verosimilmente davanti a pochi contenuti, nella sesta omelia, che è la prima orazione sulla pace, e in qualche altro passo ancora. Le orazioni del periodo costantinopolitano, invece, sono quasi tutte ricche di spunti e di considerazioni teologiche. Quelle professo teologiche sono solo tre o quattro. Comunque sia, in tutte le orazioni, sia nelle prime, sia in quelle pronunciate davanti ai fedeli di Costantinopoli, il procedimento del discorso teologico è il medesimo. Esso non è quasi mai affrontato o iniziato appositamente, ma è suggerito a mo' di spunto nel corso di precedenti considerazioni che possono essere le più svariate, sia le considerazioni sulla dignità sacerdotale, sia quelle sulla festa del Natale, sia quelle sulla particolare eccellenza di una colonna della Chiesa, quale fu Atanasio, sia l'avvenimento contingente dell'arrivo di una delegazione di vescovi egiziani, i quali suggerirono le considerazioni sull'ortodossia, difesa e insegnata in Egitto dal clero che aveva goduto dell'insegnamento di Atanasio e di Pietro di Alessandria. E per abbreviare un poco il nostro discorso, vediamo di fare qualche considerazione sull'atteggiamento teorico di Gregorio nei confronti del Logos, appunto su quel suo ideale dell'inserire il contenuto filosofico nella retorica, come ha detto poco fa Criscuolo. L'originalità e la varietà dei motivi colloca il Nazianzeno, quale scrittore di discorsi, su di un piano assai elevato, non solo e non tanto dal punto di vista letterario, per il quale io comunque lo considero ben più valido degli altri oratori della sua epoca, quanto dal punto di vista della funzione che l'oratore ha avuto nella società in cui si è trovato. Il suo ruolo è stato analogo a quello dei grandi oratori pagani dell'epoca, i quali si ponevano come compito, attraverso orazioni pronunciate o lettere aperte, di influire sull'opinione pubblica, sull'imperatore, sulla corte. Altrettanto vuole fare Gregorio, e questo suo atteggiamento lo differenzia dagli altri cappadoci suoi amici, i quali attribuirono alla omelia una funzione molto più ridotta e riservarono il meglio delle loro energie intellettuali al trattato teologico. Di questa funzione essenziale del discorso, Gregorio era almeno in parte conscio. Tale consapevolezza spiega la vivissima polemica e la ribellione con cui egli attaccò Giuliano per i provvedimenti di tipo censorio che aveva preso nell'ambito dell'insegnamento scolastico. La parte in cui Nazianzeno, nell'orazione quarta, si rifiuta di accettare i presupposti che indussero l'apostata a emanare il famoso editto sull'insegnamento, in quanto, secondo l'imperatore, i cristiani erano sostanzialmente estranei alla cultura ellenica, questa orazione dunque è percorsa da un risentimento così vivo e vibrante che non si riscontra in fondo nella restante polemica contro le colpe e l'idolatria di Giuliano. Polemica interessante per molti aspetti, ma sostanzialmente angusta sul piano politico e poco personale. La difesa del Logos è una costante del pensiero e dell'atteggiamento del Nazianzeno. Egli pensa di individuare la più intima essenza del Logos umano, riconducendola, come segno della sua massima nobiltà, al Logos divino, del quale il Logos umano è la continuazione e il dono. Tale difesa del Logos e il riconoscimento della sua altissima funzione è presente spesso anche nei Carmina, che ora per brevità però non posso prendere in considerazione. Molti di questi hanno un significato didascalico. Famoso è un passo dell'epitafio di Basilio, nell'orazione 43, nel quale il Nazianzeno, riprendendo la tematica dell'amico che aveva appunto scritto il discorso ai giovani, riscatta la dignità della cultura pagana inglobandola, purificata ben inteso, nella cultura cristiana. Sono cose che sono già conosciute e su di esse non voglio tornare qui. Voglio solo osservare che la esaltazione del Logos accompagna tutta l'attività di Gregorio dai tempi di Nazianzo agli ultimi momenti di Costantinopoli, proprio quando è obbligato a lasciare la cattedra in seguito all'ostilità dei vescovi, niceni tutti quanti a dire il vero, fino appunto al suo ritorno a Nazianzo quando ricorda e celebra Basilio. Dopo avere difeso il Logos dagli attacchi di Giuliano, ecco che pochissimi anni o mesi dopo egli così dice, nell'orazione sesta, quindi un anno o due dopo le orazioni contro Giuliano, che tra l'altro non sono ancora precisate per quello che riguarda la cronologia. Egli dice dunque: questo il Logos io offro a Dio, questo io dedico a Lui, quello che ho riservato a me stesso, quello che costituisce la mia unica ricchezza. Le altre cose, infatti, le ho abbandonate al comandamento e allo spirito, e dando in cambio tutte le ricchezze che una volta possedevo, mi sono procurato la perla preziosa. Io tengo con me soltanto il Logos, perché io adoro il Logos. Naturalmente, io tengo con me il Logos, scritto con la lettera minuscola, perché adoro il Logos con la maiuscola, ma quando Gregorio scriveva non c'era differenza tra maiuscola e minuscola, quindi era più facile questa ambiguità. Io tengo con me soltanto il Logos perché adoro il Logos, e certo non potrei mai di mia iniziativa porlo in non cale. E invece lo onoro e lo amo, ed esso mi procura gioia molto maggiore di quanta non ne diano agli altri le altre cose del mondo. Faccio di lui il compagno della mia vita, il consigliere buono, il buon convivente, guida nella strada che conduce in alto e pronto compagno di lotta. E siccome non mi curo di alcuna gioia terrena in vista di quella che viene dopo, si è annichilito per me ogni desiderio, o piuttosto anche per acquistare Dio, poiché questo Logos porta verso Dio insieme con l'intelletto. Dissi che la sapienza è la mia sorella, l'ho onorata e l'ho abbracciata per quanto mi era possibile. Cerco per la mia testa la corona di grazie e di esultanza che sono i doni della sapienza del Logos, il quale rischiara in noi la parte dominante e illumina per il nostro bene i passi che ci conducono a Dio. È il tipico intreccio di allusioni bibliche e di concetti filosofici che sono propri di Gregorio. E ancora, il Logos è, tra tutte le cose, quella che più si deve dare ai buoni, quella con cui noi possiamo rendere immortale il loro ricordo. Detto in occasione di un epitafio, quella per la sorella Gorgonia. E alla fine della predicazione costantinopolitana, ricordando la propria attività di pastore che ha ricostituito dalla distruzione la società dei fedeli, la corona, come egli la definisce, così dice: a coloro che intrecciavano questa corona, e quello che dico non lo dico secondo il Signore, ma lo dirò comunque, anch'io ho arrecato qualche contributo. Uno di essi è stata anche l'opera dei miei logoi, non quelli che abbiamo gettato via, ma quelli che abbiamo amato, non quelli meretrici, come disse per insultarci uno che è veramente meretricio nel parlare e nel vivere, ma quelli che sono fin troppo continenti, cioè non i discorsi che sono fatti per piacere, i logoi meretrici, ma quelli che sono fin troppo continenti perché hanno appunto un loro contenuto filosofico. Uno qualunque di questi logoi è genitura e frutta anche del mio spirito, come lo spirito sa generare coloro che si sono staccati dal corpo. Lo possono testimoniare, lo so bene, anche i più benevoli tra di voi, o magari anche tutti, perché noi abbiamo coltivato tutti. Non senza ammaestramento, infatti, noi insegniamo e non facciamo come la maggior parte della gente che assale con le offese. Lottiamo contro i discorsi, ma non contro coloro che li tengono, e non ci capita di nascondere per mezzo delle ingiurie la debolezza dei nostri ragionamenti. Cosa sarebbe interessante a tenersi presenti. Accanto alla consapevolezza di praticare la nobile arte del discorso, la cui essenza deriva proprio dal Logos divino ed è conformata dallo Spirito, vi è appunto in Gregorio la consapevolezza che i suoi logoi sono diversi dagli altri, appunto perché traggono origine dall'intelligenza che stringe l'uomo con Dio, appunto dal Logos stesso. Se i suoi logoi hanno questa origine e questa ispirazione, essi appunto non sono meretrici, cioè non sono detti o scritti solamente per piacere, ma per ammaestrare, anche se questo non significa che il parlare dell'oratore cristiano debba per forza essere spoglio e disadorno. La prassi del Nazianzeno stesso ne è una riprova. Ma il parlare per il semplice desiderio di parlare, vuoto di contenuti dottrinali, è l'oggetto della famosa descrizione satirica dell'orazione 27, la quale non ha niente a che fare con le orazioni teologiche, ma è stata collocata avanti a quelle appunto perché servisse di introduzione al discorso più solido che sarebbe venuto poi. Lo stile dei discorsi alla moda, osserva ancora Gregorio durante il suo periodo di Costantinopoli, è tale che disdegna tutto quello che è nobile e semplice per introdurre tutto quello che è tortuoso ed enigmatico. Anche se, pure a questo proposito, le allusioni enigmatiche, tortuose, talvolta si trovano nelle orazioni di Gregorio. In tal modo, egli prosegue, dal frutto si riconosce l'albero, intendo dire che dalla tenebra di quanto viene detto riconosco la tenebra che produce siffatte dottrine. I discorsi di Gregorio hanno fatto impressione profonda sui suoi ascoltatori, come abbiamo visto prima, tanto è vero che spinti dall'entusiasmo i fedeli di Costantinopoli, in una giornata famosa dell'anno 380, di cui si ricorderà lo scrittore ancora nel Carme autobiografico, non senza sua soddisfazione lo condussero in processione a prendere possesso della chiesa dei Santi Apostoli, fino ad allora occupata dagli Ariani. E comunque vi è anche una critica che è stata mossa a Gregorio, diciamo proprio all'interno dei suoi stessi fedeli, e cioè la critica di presentare un'oratoria che tutto sommato non ha abbastanza consistenza teologica. È quindi una critica che vede in Gregorio una certa debolezza di contenuti, perché non ha una sufficiente elaborazione, perché ha troppa elaborazione formale. Quindi prima c'è stata la critica da parte di coloro che vedevano in Gregorio un oratore non sufficiente alla moda. All'interno dei gruppi cristiani proprio vi è la critica, anche la critica apposta. Eppure, infatti, Nazianzeno è accusato anche di essere troppo sofista, e a proposito di questa eloquenza pagana, secondo i suoi avversari, Gregorio precisa che il suo procedimento è stato semplicemente quello di avere addolcito con il legno della vita l'acqua amara e imbevibile di merra, cioè ha modificato le tecniche e i contenuti del discorso pagano inserendovi i contenuti cristiani. E subito oltre: perché non abbiamo abbracciato una vuota cultura? Cioè, Gregorio sostiene che la sua oratoria non è puramente sofistica, ma non è nemmeno incolta e rozza. Eppure, molte persone preferiscono questo secondo tipo di oratoria, un'oratoria incolta, umile, pedestre. Perché secondo questi critici ignoranti, che sono appunto all'interno della comunità ortodossa, Gregorio avrebbe dovuto con coraggio fuggire i ragionamenti e chiamare fede l'incapacità di parlare, la alogia. Ma, conclude con violentissima ironia, ben volentieri avrei rinunciato a parlare, sappiatelo pure, dato che sono pescatore. Sì, perché per la maggior parte della gente questa è la scusa più facile per la propria ignoranza. Cioè, sono quelli che credono che il cristiano non debba coltivare l'arte oratoria, perché basta per loro essere appunto pescatori, cioè discendenti dei pescatori degli apostoli. Ben volentieri avrei fatto, dato che sono pescatore, solo che avrei dovuto avere al posto della parola la capacità di fare i miracoli. L'orgogliosa difesa del proprio compito, della propria arte, contro le accuse di una parte e dall'altra dei suoi ascoltatori o dei suoi nemici, non poteva trovare un'espressione più risentita e personale. Grazie. Il nostro Moreschini, egli è padrone dei cappadoci, parla con i cappadoci e non poteva che darci una relazione simile. E in Italia è stato uno dei pochi, il nostro Moreschini, a portare il discorso sui cappadoci. È stato il primo a tradurre i 5 discorsi teologici. E i discorsi teologici non erano conosciuti. Dopo la sua traduzione ho visto che è stato molto richiesto e molti teologi si sono abbeverati a quella traduzione. Cioè, ha visto molto lontano Moreschini. Mentre noi abbiamo altri studiosi di patristica che rimuginano sulle stesse cose, qui si va sul nuovo, si scava sul nuovo e si porta materiale più fresco, materiale più profondo. Gregorio Nazianzeno, tutti lo sanno, è inutile stia a dire, è un grande teologo. Ma qual è questa teologia? E si va ora conoscendo, e si va ora piano piano scoprendo. E il merito lo dobbiamo dare alla scuola pisana di Claudio Moreschini. Poi sentiremo parla della stessa scuola, e lui è stato allievo. Ecco. Adesso non so. Cosa avviene? Rompere un attimo. Eh sì, sono state due relazioni bellissime, ma siamo stati attenti. 15 minuti, ma poi prendiamo con palla e poi facciamo la discussione. Sì. Allora sono le 11:10, facciamo le 11:30, tanto per Le 11:25 incominciate a venire qui. Non c'è mente, si parla. Bene, caro.